in primo piano. Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. E cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, perché ieri c'è stata l'ennesima caduta delle borse. In questo agosto, come del resto nell'agosto dello scorso anno, è veramente quasi imprevedibile l'andamento delle borse, perché solo due giorni fa Wall Street ha fatto un record e poi ieri invece sono di nuovo scese tutte. Il motivo, apparentemente, perché poi i wild spirits li chiama qualche economista, gli spiriti selvaggi dell'economia e della finanza, a volte causano appunto questi scossoni sulle borse. E trovare la vera ragione è molto difficile. Una potrebbe essere quella dell'incertezza sul taglio dei tassi che potrebbe decidere la Federal Reserve, la banca centrale americana, che essendo la banca centrale della più grande economia mondiale ha ovviamente effetti su tutte le economie, su tutte le borse. Sono infatti stati resi noti le famose minute, i verbali delle riunioni della Fed, e si è capito che ci sono posizioni diverse, quindi non è ancora deciso se i tassi verranno abbassati o no. Da qui il titolo: ancora in cadute le borse, Fed divisa sul rialzo dei tassi. E naturalmente sul Sole 24 Ore, richiamata in prima pagina, trovate anche la notizia di Ryanair, di cui però sapete tutto grazie alla controcopertina che avete appena sentito. Invece un'esclusiva sul Sole 24 Ore, sempre in chiave Olimpiadi, ma come abbiamo visto Maria Luisa Colledani da Rio de Janeiro ce le racconta sempre in un modo, da un'angolazione molto particolare: storie di aziende, storie di innovazione, anche intervista ai campioni, ma sempre appunto con un angolo molto originale. E in questo caso è un reportage che poi trovate a pagina 15, richiamato in prima pagina. Maria Luisa è l'unica giornalista alla quale è stato concesso di vedere da vicino questo centro ipertecnologico, che lei chiama quasi una NASA olimpica, dove ci sono 500 server che devono tenere sotto controllo, dal punto di vista tecnologico, il funzionamento dei giochi, naturalmente i punteggi e tutto quello che di tecnologico serve a far funzionare la macchina dei giochi, che fino ad ora in effetti dal punto di vista tecnologico ha funzionato alla perfezione. Poi ci sono altri problemi che molti cronisti hanno raccontato, Maria Luisa stessa, anche soltanto di passaggio, di muoversi, di usare i trasporti nella gigantesca Rio. Però ecco, dal punto di vista tecnologico invece questi 500 service del TOC, che sta per Technology Operations Center, tutto sta andando liscio. La prima pagina del Corriere della Sera invece ha un'apertura diversa, perché prende spunto da un'intervista al numero uno del capo del Dipartimento Immigrazione italiano, Mario Morcone, che delinea questo suo piano e soprattutto questa strategia, questa sua convinzione che per concretamente limitare l'emergenza migranti, per esempio, si devono organizzare dei lavori utili nelle città per tutti loro, e deve essere un piano condiviso con i comuni e i privati. L'intervista poi la trovate subito a pagina 2 e vi leggo appunto queste due domande, perché è talmente un tema su cui tutti si esercitano, questo di trovare una soluzione all'emergenza migranti. Questo mi sembra una proposta concreta. E quindi Virginia Piccolillo chiede a Morcone: ma non le diranno che dare un lavoro agli immigrati è assurdo, visto che ci sono tanti italiani che non hanno un lavoro? E Morcone risponde: io mi occupo di immigrati, dei cittadini italiani se ne dovrebbero occupare altri ministeri. Se mi danno l'incarico cercherò soluzioni anche per quel problema. Attualmente mi piacerebbe che a rompermi la testa non fossi solo io che sono un prefetto. In primo piano. E rieccoci subito sulle prime pagine dei quotidiani. Vi dicevo, visto che davvero mi sembra il problema più importante in questi giorni, quello di trovare una soluzione alla presenza dei migranti, a volte anche clandestini, che arrivano nelle nostre città, il Corriere della Sera, con questa intervista al capo del Dipartimento sull'immigrazione Morcone, dedica poi alla questione due pagine, la 2 e la 3, ed è molto interessante anche il confronto con quello che succede in Germania. Germania, Inghilterra e Svezia. Le vie europee per l'integrazione, la sfida dell'accoglienza passa dall'impiego e i governi appunto hanno avviato diversi programmi. Per esempio in Germania sono già ci sono 7 milioni di residenti stranieri e sono stati avviati per esempio dei corsi di formazione nella fabbrica della Porsche. In Inghilterra ci sono prima di tutto i corsi di lingua da frequentare per chi chiede asilo politico o ha diritto a restare in Inghilterra. Anche in Svezia il nodo è proprio quello del lavoro, si cerca subito di smistare questi immigrati cercando di capire quali possono essere le loro capacità, il loro livello di istruzione e trovare un lavoro laddove ci sono dei posti vacanti. La Repubblica invece apre sulle parole del ministro della giustizia Orlando, ma il tema è sempre quello dei migranti, anche se non dall'angolazione, come evitare di farli bighellonare, per usare il termine non so se proprio propriamente usato da Chicco Testa qualche giorno fa per descrivere la situazione dei migranti a Capalbio, che appunto ha detto non dobbiamo trovare una soluzione perché sennò restano qui nella bella località di villeggiatura a bighellonare, così ha detto. E quindi su questo tema, cioè sul tema comunque che queste persone devono, al di là di adesso siamo in estate, il tempo aiuta, ma dovranno avere, come del resto si è deciso per Como, dovranno avere un posto dove dormire, possibilmente anche dove lavarsi, da mangiare. E l'altro tema è comunque invece quello delle espulsioni, perché c'è chi tra questi viene considerato pericoloso o è già dimostrato che sia pericoloso, ma su questo si è espresso per l'appunto il ministro della giustizia Andrea Orlando e ha detto in realtà su queste questioni che devono passare dal tribunale, perché ci deve essere un decreto di espulsione, c'è già un intasamento e l'appello è quello che vengano cambiate le regole. Ci sono anche tantissimi articoli sulla vicenda di cronaca tragica dei due dogo argentini che in un piccolo paese della Sicilia hanno ucciso un bambino, il figlio della loro padrona, quindi il bambino di famiglia a morsi. Francesco Merlo commenta la notizia, il commento inizia in copertina, ne leggeremo una parte e lo trovate poi a pagina 17. Finiti, ma molto numerosi invece i commenti, le esercitazioni, i pareri sulla questione del Burkini. Magari anche di questo vi segnalerò qualche articolo, ma vi segnalo anche che poi se ne parlerà nella trasmissione Ma cos'è quest'estate, condotta da Elisabetta Fiorito, quindi dopo questa rassegna stampa, dopo il GR. Il Messaggero, che già ieri aveva un'anticipazione su come si stanno trovando, si stanno cercando di trovare le coperture per un nuovo contratto agli statali, dove sapete che il rinnovo è bloccato, sono bloccati anche gli aumenti. Forse però non si ricorda mai abbastanza che anche in tantissime aziende private gli aumenti sono bloccati dall'inizio della crisi. Comunque su questa questione si sta molto discutendo, tanto che il Messaggero oggi titola "Statali più soldi per il contratto". Il governo è pronto ad aumentare i fondi per appunto questo famoso rinnovo. Si passerebbe dai 300 milioni già previsti al miliardo, quindi più che triplicato. La base di partenza della trattativa sarebbe di 80 euro. Gli incrementi in questo piano non sarebbero a pioggia ma selettivi. Oggi comincia a dominare di nuovo su tutti i giornali, non solo sulla Gazzetta, il calcio, perché ci sono stati i preliminari di Champions e soprattutto si avvicina all'inizio del campionato di Serie A. E quindi la fotonotizia del Messaggero è dedicata alla Roma, che ieri appunto nei preliminari di Champions ha pareggiato 1-1 con il Porto. La Stampa ha sempre un titolo economico, non si occupa solo dei fondi che si stanno cercando per rinnovare i contratti della pubblica amministrazione, ma in generale su tutto quello che servirà per la manovra, la manovra che ci aspetta in autunno. Secondo la Stampa ci sarebbe già un'intesa tra Matteo Renzi e il ministro dell'economia Padoan per far crescere questa manovra fino a 30 miliardi per includere investimenti investimenti che finalmente stimolino l'economia, perché sappiamo che gli ultimi dati sul PIL sono stati rivisti al ribasso rispetto alle stime precedenti. Se il PIL cresce di meno, cresce di meno anche il gettito fiscale, è una specie di spirale, quindi quello che tutti invocano è uno stratagemma quasi a questo punto, perché in un'economia così anche globale in crisi è davvero difficile pensare a misure per la crescita, quindi tutti comunque invocano che si esca da questo stallo e da qui il piano per aumentare gli investimenti. La fotonotizia però è dedicata a quello che sta succedendo a Sirte. È un reportage di Giordano Stabile, tra i mercenari l'ultima difesa del califfo. Ci sono ancora tantissimi combattimenti anche a Aleppo, lo vedremo, ad Aleppo, come nei giorni scorsi era stata paragonata l'assedio di Aleppo a quello di Sarajevo, che è stato il più lungo assedio a una città, durato 3 anni dello scorso secolo, durato dal 92 al 95. Aleppo è in questo momento in una situazione altrettanto disperata, anche perché la tregua invocata dall'ONU, e lo vedremo anche su altri giornali, per ora in realtà non è stata attuata. Dalla prima pagina della Gazzetta, come vi dicevo, ormai addio Olimpiadi o quasi, c'è ancora una specie di colonnino a lato, però il titolo è dedicato da una parte alla Juventus e dall'altra alla Roma, che abbiamo visto ieri ha pareggiato. Il Giorno invece dedica la fotonotizia, il titolo principale, a quella che viene definita la battaglia del Burkini, perché, come avete già anche sentito, tutto parte un po' dalla Francia, dove c'è già una legge, delle norme e delle multe per le donne che decidono di indossare il Burkini in spiaggia. In Italia non c'è ancora una posizione ufficiale, o meglio, il ministro Alfano ha detto che sarebbe meglio non fare leggi simili a quelle della Francia, perché potrebbero risultare come delle provocazioni. Però, per esempio, il leader della Lega Matteo Salvini e una parte di Forza Italia si è invece già detta favorevole. Vi segnalo che su tutti i giornali, ma il Giorno è uno di quelli che proprio lo mette in prima pagina, ci sono delle anticipazioni sulla autobiografia di Bruce Springsteen, che uscirà tra poche settimane, e appunto tutti i giornali ne hanno pubblicato una parte, e il Giorno lo richiama anche in prima pagina con questa affermazione forte, perché poi Bruce Springsteen non ripercorre proprio tutta la sua vita fin dagli inizi. Dice: all'inizio, quando appunto avevo 20 anni, andavo a suonare nei locali, mi sentivo quasi un impostore, non un vero rocker che avesse diritto a quegli spazi per suonare la sua musica e le sue canzoni. Interessante sulla questione del Burkini, non ho visto articoli simili sugli altri giornali, un articolo di Simona Ballatore, che è a Milano, è andata a visitare questo negozio, il cui titolare è un commerciante di origini algerine, che ha aperto un negozio, o meglio, ha un negozio dove dà sempre più spazio ai burkini, e dice: abbiamo venduto una quarantina di capi nel 2015, mentre quest'anno non ci sono stati ordinativi, e così si è deciso di non acquistarne, speriamo nel 2017. Quindi in Italia pare che nel 2016 appunto il burkini non abbia avuto molto successo, tanto che questo negoziante punta su altre categorie di abbigliamento. L'Avvenire titola anche in questo caso su quelle che vengono definite le nuvole d'autunno, ma che comunque sono la manovra finanziaria, che prenderà forma presumibilmente quando, dopo i loro 40 giorni di ferie, i parlamentari torneranno a riunirsi. Deflazione, tassi zero, crisi bancaria, sono queste le principali minacce alla ripresa economica. La fotonotizia però è dedicata ad Aleppo. L'ONU su Aleppo, rischio di una catastrofe immane, quindi l'ONU continua a fare i suoi appelli, che sostanzialmente cadono nel vuoto, perché la tregua che si è invocata soprattutto per permettere delle sorte di corridoi, quelli che vengono definiti corridoi umanitari, cioè un lasso di tempo in cui almeno in certe zone di una città assediata sia permesso ai convogli che trasportano medicinali, cibo, acqua di arrivare senza essere bersaglio di cecchini o comunque di colpi delle fazioni in guerra in quel momento in quella città. Questa tregua appunto non si è realizzata, e il numero uno delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, continua a invocarla, ma come spesso accade l'ONU poi è di fatto impotente. Il giornale, questa è una cosa curiosa, il giornale e anche Libero scelgono di titolare sulla tesi di un premio Nobel per l'economia che è Joseph Stiglitz, premio Nobel americano. Chi ha studiato economia all'università probabilmente lo conosce anche solo perché il suo testo di microeconomia è in assoluto uno dei più adottati nei corsi del primo anno. Ovviamente non quando addirittura credo che sia stato scritto prima dell'introduzione dell'euro, poi magari aggiornato. In ogni caso ogni tanto pubblica un libro. Nel suo ultimo libro si dice profondamente contrario alla struttura della moneta unica dell'euro, così come è stata concepita e si è sviluppata a partire dal 2000. E quindi la sua ricetta è ipotesi 2 euro. E su questo il giornale apre. Stiglitz propone una moneta a doppia velocità per salvare l'Europa. L'idea sarebbe quella di farne una per il sud Europa e una per il nord. Il Oscar Grazioli, che sapete è veramente il giornalista che sul giornale quasi ogni giorno trova, scova, racconta storie di animali belle, meno belle, tristi o invece molto allegre, era giustamente la persona più adatta per commentare l'episodio di cronaca di cui abbiamo parlato prima, che è capitato in Sicilia con i due dogo argentini che hanno ucciso un bambino di un anno e mezzo. E il Oscar Grazioli spiega cani problematici e bimbi, ecco come comportarsi, e poi trovate tutto a pagina 15, ci sono i consigli pratici, molti li danno anche tutti i veterinari a chi ha cani grandi. Uno dei più banali è comunque di non lasciare mai bambini piccoli con cani molto grandi, specie se sono molossoidi, perché i molossoidi, di cui fanno parte anche i cani come i dogo argentini, e a maggior ragione se sono stati addestrati, hanno una tale forza che spesso è il loro istinto a suggerire che quando azzannano qualcosa non mollano la presa finché la cosa che hanno azzannato non si stacca. Ci sono poi tantissimi altri consigli pratici, anche per esempio uno molto apparentemente banale di non far mai avvicinare un bambino a un cane che sta mangiando, si tratti anche di un labrador o di un chihuahua, cioè cani apparentemente o per indole il labrador o per dimensioni il chihuahua non pericolosi, e molti altri consigli li trovate poi appunto nell'articolo di Oscar Grazioli sul giornale. Come vi dicevo, Libero fa la stessa scelta, cioè parte dal libro di Stiglitz, euro e austerità sono truffe, il libro del Nobel attacca l'Europa, la moneta unica ha fallito su benessere e integrazione politica. Tra l'altro continua la raccolta firme di Libero, che sta appunto raccogliendo le firme di tutti coloro che chiedono un referendum come quello che c'è stato in Gran Bretagna il 23 di giugno, anche se in Gran Bretagna un referendum di quel tipo è previsto dall'ordinamento giuridico, da noi non sarebbe, o comunque poi l'esito non sarebbe vincolante per davvero far uscire l'Italia dall'Unione Europea, ma tant'è, questa raccolta firme è partita e continua. L'unità titola su Ryanair con questo titolo: nel blu dipinto di blu, che suppongo faccia riferimento sia ai cieli sia al colore, uno dei colori principali della compagnia low cost. Perché credo l'unità dia tutto questo spazio? Perché viene poi descritto come un successo del governo Renzi, che ha sicuramente favorito questo importante investimento di Ryanair in Italia, prevedendo anche, come avete sentito nel GR e nella controcopertina, anche tutto un regime fiscale particolare. Il Fatto Quotidiano invece attacca il governo, non è una novità, con una questione che, come spesso il Fatto Quotidiano ha il merito di fare, viene appunto scovata, scoperta e approfondita solo dal Fatto Quotidiano, ed è sulle trivellazioni. Ricorderete tutte le polemiche con i referendum sulle trivellazioni. Si scopre che comunque dalla Sardegna all'Emilia non sono ancora state date le nuove regole, e quindi tutti gli impianti di trivellazione in assenza di fatto di regole, ma soltanto approfittando di proroghe, continuano secondo appunto le vecchie regole, che invece in molti avevano detto, nonostante i referendum abbiano fallito e le trivellazioni siano lecite, però alcune regole andassero cambiate. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Ci mancava tra le prime pagine solo quella del Manifesto che, facendo una scelta che gli altri giornali non fanno, dedica lo spazio maggiore a quello che sta succedendo in Turchia. Abbiamo un po' perso la centralità di quello che sta succedendo in Turchia. Sapete, dopo il golpe del 15 luglio c'è stata una reazione durissima di Erdogan, con arresti, chiusura di giornali, arresti di massa proprio. E la notizia di ieri, da qui il titolo del Manifesto, le sue prigioni, è che siccome ha arrestato talmente tante persone, parliamo di probabilmente qualcosa vicino tra i 50.000 e le 100.000 persone, in carcere non c'è posto e quindi sono stati liberati 38.000 detenuti comuni per far posto invece a quelli che il Manifesto definisce gli avversari. Ma tante altre cose stanno succedendo in Turchia, come per esempio, e ce lo racconta sempre il Manifesto, la legalizzazione della pedofilia, perché questo titolo dell'articolo che trovate a pagina 3, perché la Corte Costituzionale turca ha cancellato l'articolo 103, quello che puniva gli abusi sui minori tra i 12 e i 15 anni. Tra l'altro spesso questi abusi sono sulle bambine e sulle spose bambine in particolare, una pratica che in Turchia, magari non nelle grandissime città, ma sicuramente nei centri appunto meno conosciuti, è ancora diffusissima. Torniamo al Sole 24 Ore nelle pagine interne, perché abbiamo parlato di come una decisione dell'America sui tassi di interesse sia poi possa influenzare l'andamento di tutte le borse, quindi della finanza e poi magari anche dell'economia reale. Un'altra non incognita, ma proprio pedina sullo scacchiere geopolitico economico mondiale è il petrolio. Sapete quanti problemi ha causato alla Russia il crollo del prezzo del petrolio negli ultimi 2 anni. Adesso il prezzo ha ricominciato a salire e soprattutto si attende un accordo, una mossa o un comunicato chiaro da parte dell'OPEC, tanto che Sissi Bellomo ci racconta: petrolio Riyadh, cioè l'Arabia Saudita, per ora, tra parentesi, corre da sola in attesa di un accordo OPEC, i sauditi puntano ad aumentare la produzione. Il commento di Roberto Bongiorni: se è Teheran a decidere l'agenda per tutti, perché in realtà sì, Riyadh, cioè l'Arabia Saudita, è uno dei principali paesi produttori e forse quello che di fatto influenza di più le scelte dell'OPEC, ma poi ci sono anche i paesi non OPEC che possiedono molto petrolio, Iran, Russia e persino il Venezuela, che nonostante questo non riesce, anzi è in profondissima crisi economica, nonostante abbia questa grande risorsa energetica. E quindi un po' cercare di capire, anche se poi ogni giorno lo scenario cambia e cambiano le quotazioni dell'OPEC, del barile, per cercare di capire se ora che si è di nuovo sfiorata la quota di $50, che cosa succederà al prezzo del petrolio. Un'altra economia in crisi, adesso abbiamo appena parlato del Venezuela, è quella spagnola, che non è soltanto la Spagna non è solo in crisi dal punto di vista economico, ma anche da quello politico, perché nonostante si sia andati a elezioni anticipate, perché dopo le ultime elezioni politiche non si era riusciti a formare un governo, ancora adesso la Spagna è di fatto senza un governo e intanto tutto il resto va avanti. E Luca Veronese ci racconta per esempio come il debito spagnolo abbia raggiunto i massimi, è al 100,9%, record dell'ultimo secolo a giugno secondo la Banca Centrale. E naturalmente sono a rischio tutti i target che si erano dati come bilancio dello Stato, e quindi anche qui poi probabilmente ci saranno delle conseguenze a livello europeo. Molto divertente la copertina di Imprese e Territori, interessante perché, come spesso accade, ci racconta l'economia reale da punti di vista che magari sfuggono ad altri giornali. E qui Barbara Ganz dal Veneto ci racconta come sia già iniziata, ma alla grande, e quindi proprio in un mese in cui molte aziende, specie in Italia, sono chiuse, la produzione di panettoni. Il panettone inizia la corsa dall'export. Se è molto importante iniziarla con questo anticipo, perché ci sono paesi molto lontani, ad esempio la Nuova Zelanda e l'Australia, che sono ottimi mercati per i nostri dolci natalizi, in primis il panettone, e però la produzione deve partire in fretta, devono partire in fretta le spedizioni, e da qui quindi le aziende del distretto veronese, ci dice Barbara Ganz, aperte per ferie. Da Bauli a Paluani ci sono pattuglie di lavoratori stagionali che appunto per riempire questo gap di produzione. Il Focus Estate, l'iniziativa che è iniziata il 1 agosto e che ci farà compagnia per tutto il mese, con questa guida per i professionisti, ogni giorno 2 pagine su un argomento diverso, oggi le regole per chi si mette in proprio. Vi dicevo ancora prima, insomma, la questione di come spingere l'economia. C'è l'ennesima intervista di un esponente del PD, Enrico Morando, vice ministro dell'economia, ne ha concesse parecchie in questo periodo. Quella che oggi viene pubblicata sul Corriere della Sera, fatta da Enrico Marro, è intitolata "Per spingere l'economia il deficit deve salire oltre il 2%. Naturalmente è una questione che va negoziata con l'Unione Europea. E parlando di come si dà peso diverso in questo caso a un libro, ma che è comunque un libro che fa notizia, quello di Stiglitz, contiene molte tesi e contiene in particolare questa presa di posizione sull'euro e questa idea di spezzare la moneta unica in due, crearne una per i paesi forti, quelli del nord Europa, e un'altra per quelli che secondo Stiglitz sono invece sono paesi più deboli, quelli del sud Europa. Il Corriere della Sera inserisce, dunque sono esattamente sei righe all'interno, come una specie di piccola scheda all'interno di questa intervista a Morando, che trovate a pagina 6, sono 6 righe esatte, il titolo "Dividere l'euro, progetto possibile", e il premio Nobel Joseph Stiglitz si dichiara a favore di un sistema di euro flessibile, con un euro forte nel nord e un euro più debole per i paesi del sud, virgolettato, la fine della moneta unica non sarebbe la fine del progetto europeo. Quindi c'è chi dedica 6 righe a questa notizia e chi invece dedica le prime pagine. Alleggeriamo un po', e poi insomma chi mi segue, chi mi conosce un pochino sa della mia passione per i gatti. Maria Teresa Veneziani, a pagina 24 del Corriere della Sera, riassume un po': non ha avuto il privilegio di intervistare né Karl Lagerfeld, che è il custode, il compagno della famosissima gatta Choupette, e non ha avuto quindi Maria Teresa Veneziani il privilegio né di intervistare lui né di intervistare Choupette, però mette insieme un po' tutte le informazioni, anche perché 2 giorni fa Choupette, che ha anche un account Twitter, ha annunciato di aver compiuto 3 anni e quindi veramente sorrido io stessa, perché a questa gatta sono state dedicate da Karl Lagerfeld, che viene definito Kaiser Karl, perché forse insieme a Giorgio Armani è veramente lo stilista più famoso al mondo, oltre ad avere la sua linea e la linea per Choupette, è direttore creativo di Chanel e del Prêt-à-Porter di Fendi, e si è innamorato di questa gatta in tarda età, ha scoperto il fascino dei gatti, quindi la gatta è diventata modella, e una delle tante dichiarazioni di Lagerfeld è che per lui Choupette è come la sua garbo. Fine del momento di estrema leggerezza, e spero che ci siano più gattofili all'ascolto possibili. Sulla questione di Capalbio vi segnalo, ma come vi dicevo se ne parlerà anche di ma cos'è quest'estate dopo il GR delle 8. Qui, visto che il sindaco di Capalbio, che è in provincia di Grosseto, è del PD, abbiamo un altro esempio di grande coordinamento all'interno del Partito Democratico, perché la Repubblica ha interpellato il governatore della Toscana, che è a sua volta Enrico Rossi, è a sua volta un esponente del PD, anche se ha dichiarato più volte che se ci fossero al prossimo congresso del Partito Democratico, che sarà in autunno, lui si candiderà a segretario del partito, quindi come rivale di Renzi. Il titolo dell'articolo di Laura Montanari è "L'ira di Rossi su Capalbio, boiardi ed ex comunisti che non vogliono i migranti", ed è una cosa che a lui causa indignazione, ma forse non è il solo. Vi dicevo dell'articolo di Francesco Merlo che prende spunto dal fatto di cronaca terribile accaduto in Sicilia, con il bambino di 1 anno e mezzo sbranato dai 2 dogo argentini di casa, e l'ho trovato interessante questo articolo di Francesco Merlo, che non so quanto ami e conosca i cani, però fa alla fine un piccolo ci ricorda quali sono state in anni recenti le misure prese per cercare di limitare questo rischio di attacchi da parte di cani, magari non necessariamente aggressivi ma molto forti, contro per esempio bambini o altri cani, succede anche questo, e ricorda appunto Francesco Merlo sostenerlo. Nel 2003 l'allora ministro Girolamo Sirchia, medico che per primo introdusse il divieto di fumare, aveva emanato un'ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi e aveva stilato un primo elenco di razze canine ed incroci di razze a rischio di aggressività. Eccole: American Bulldog, pastore di Ciarplanina, pastore dell'Anatolia, pastore dell'Asia centrale, pastore del Caucaso, cane da serra da Estrella, dogo argentino, fila brasiliero, perro da canapo maiohero, perro da presa canario, perro da presa mallorchin, pitbull, pitbull mastiff, pitbull terrier, rafeiro do alenteio, rottweiler e tosa inu. E per dovere di cronaca vi dico che io, quando vivevo con mia sorella, andavamo all'università, abbiamo avuto un rottweiler e ricordo sempre il veterinario che ci disse: addestrare un cane così potente è poi come avere una pistola carica in tasca, però il grilletto lo tirate voi. Quindi questo tema del rendere consapevole un cane della sua forza e poi stupirsi se la usa è sicuramente uno dei temi da considerare. Ma continua Francesco Merlo: ebbene, nel 2009 l'allora sottosegretario alla salute Francesca Martini abolì quell'elenco e annunziò un patentino per proprietari di cani che, ma guarda un po', non è mai stato istituito e che il Codacons oggi reclama, nonostante la burocratizzazione in Italia complichi invece di risolvere i problemi, dice un veterinario. In Italia chiunque, purché non sia un delinquente pregiudicato, può comprare e possedere questi cani, che sono, come abbiamo visto, potenziali macchine da guerra. Più radicalmente nei paesi dell'Europa civile, vabbè, quindi forse noi saremmo incivile, questo mi sembra un po' troppo, dall'Inghilterra alla Germania, dalla Francia alla Danimarca, l'allevamento e la detenzione di cani pericolosi è vietata, questo lo scrive Francesco Merlo. Che succederà ora ad Asia e Macchia, che sono i due dogo argentini? Il veterinario risponde: Stefania e Giuseppe, i genitori del bambino ucciso, decideranno se abbatterli oppure se lasciarli vivere in un canile. E conclude Francesco Merlo: mai sapranno di essere una razza selezionata dall'uomo, dentro queste bestie c'è l'uomo. Dalla Repubblica vi segnalo anche un'intervista che Repubblica in realtà ha tradotto dal Washington Post a Tim Cook, l'uomo che ha preso il posto di Steve Jobs quando il fondatore dell'Apple è morto. Da quel momento si sono un po' alternati i successi e gli insuccessi della Apple, nel senso che l'iPhone continua a trainare i conti dell'azienda americana, però per esempio l'Apple Watch è stato un flop sostanzialmente. Allora Tim Cook sembra tornare sulla centralità degli smartphones, cioè i telefoni intelligenti come l'iPhone. Il titolo infatti dell'intervista è: uno smartphone per ogni abitante della Terra, saremo connessi ma non violeremo la privacy, un'accusa che è stata più volte mossa alla Apple, che peraltro però in certe occasioni si è rifiutata di aiutare per esempio l'FBI in America a decrittare, ad aprire alcuni iPhone che venivano in cui venivano ci sarebbe, ci avrebbero potuto esserci informazioni importanti per inchieste anche su terroristi. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ringrazio anche tutti gli ascoltatori che stanno scrivendo dei messaggi al 349-238-6666 e in particolare all'ascoltatore che chiede maggiori approfondimenti su Ryanair. Come vi dicevo, se ne è parlato nel GR, lo trova su tutti i giornali e dice è una questione importante, lui la considera più importante di altre, per esempio il Burkini e la questione delle aggressioni dei cani. Queste naturalmente sono opinioni, sicuramente è un investimento importantissimo, 1 miliardo, e soprattutto forse il punto più interessante è che Ryanair ha promesso di far partire tutte queste nuove rotte dall'Italia verso l'Europa da aeroporti considerati minori, quindi non soltanto Orio al Serio, che è l'aeroporto vicino a Bergamo che Ryanair utilizza, e da Roma. E proprio a Roma torniamo con il Messaggero, che è quello che dedica più spazio alla questione degli stipendi della giunta Raggi. Sapete quante polemiche ha scatenato lo stipendio che verrà dato a una componente della giunta che in realtà è un magistrato molto vicino, cioè quasi a fine carriera, e che quindi ha maturato grazie agli scatti automatici che ci sono all'interno della magistratura, uno stipendio molto alto e quello stipendio è sostanzialmente quello che le ha garantito anche la Giunta Raggi. Però per tutti gli altri si studiano invece dei tagli. Dopo le polemiche sui maxi compensi, i grillini potrebbero decidere di ritoccarli. Però chi, magari soprattutto chi non è del Movimento 5 Stelle, è subito andato a sentire, ci racconta il Messaggero, il parere di alcuni giuslavoristi: se questa misura venisse introdotta, questo taglio degli stipendi, c'è già un timore dei ricorsi. Questo sul Messaggero. Invece sulle pagine interne della Stampa, un'inchiesta di Giuseppe Bottero e Luca Fornovo su come l'Italia, che fino a pochi anni fa era uno dei paesi con il risparmio privato più alto, adesso si stia molto indebitando. Dalla culla alla tomba, vita a rate degli italiani al tempo dei tassi a zero. Perché se è vero che con questi tassi di interesse, che discendono direttamente i tassi delle nostre piccole banche da quelli decisi poi dalle banche centrali, da qui immaginate anche l'importanza di una decisione della Banca Centrale Americana, questi tassi bassi hanno invogliato molte persone a indebitarsi e quindi adesso però effettivamente ci si indebita per tutto. C'è uno schema con molti numeri che spiega quali sono magari i primi finanziamenti a cui si incorre, tipicamente quello per l'auto quando si ha un lavoro fisso, e naturalmente tutto questo è anche molto legato al tema della precarietà e a come oggi rispetto a tanti anni fa la maggioranza dei nuovi contratti siano a tempo determinato anziché indeterminato, e al fatto che molte banche non si siano adattate a questo, quindi continuano a chiedere uno stipendio, appunto un contratto a tempo indeterminato, che spesso molti giovani non possono garantire. Vi segnalo sempre dalla Stampa quel reportage che vi dicevo prima, richiamato in prima pagina, da Sirte, con delle foto impressionanti di quelle che sono appunto le guerre nelle città, che qui in Europa molti di noi non hanno mai visto, e i cui testimoni, cioè le persone che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale, praticamente insomma stanno scomparendo per ovvi motivi di età, quindi non davvero noi o non li abbiamo visti o non ce li ricordiamo. Vedendo le foto di quello che succede a Sirte o Aleppo, bisogna rendersi conto che in realtà nel mondo ci sono ancora tantissimi luoghi dove scene che appunto qui in Europa sono dimenticate in realtà sono di estrema attualità. Dall'Avvenire la questione del Burkini naturalmente, ma vi segnalo anche un approfondimento sulla Burundi, perché sono passati 2 anni dall'assassinio, forse lo ricorderete, delle 3 suore missionarie italiane, Bernardetta Boggian, Olga Raschietti e Lucia Pulici, che furono uccise in Burundi semplicemente per questioni da ribelli locali che con motivazione chiamiamola religiosa, anche se io su questo sono d'accordo con Papa Francesco, giustificare o accreditare la motivazione religiosa per brutali assassini e anche per il terrorismo è un rischio di per sé. Comunque in questo articolo sì, è un'occasione per ricordare quell'episodio terribile, ma anche per ricordare tutte le missionarie, le suore e naturalmente anche i preti missionari che vanno rischiando la vita in questi paesi. Dalle pagine interne del Giornale invece, a proposito di divisioni del PD, ecco un'altra intervista di un importante esponente del PD, Cesare Damiano, che nel governo Prodi aveva avuto anche la delega al lavoro. Siccome un'altra eterna questione di fatto irrisolta è quella di una riforma delle pensioni che davvero abbia effetti positivi nel medio-lungo periodo, si ritorna a parlare di pensioni e Cesare Damiano dichiara: conflitto politico e sociale se Renzi molla i pensionati. Il Giornale definisce queste dichiarazioni l'altolà dell'ex ministro. Ritoccare la Fornero è la priorità. La legge Fornero è l'ultima grande fatta durante il governo Monti, l'ultima grande riforma delle pensioni, e Damiano addirittura dice: altrimenti la maggioranza andrà in tilt. L'articolo di Oscar Grazioli ve l'ho già citato, è intitolato Cani problematici e bambini, istruzioni per l'uso di una relazione pericolosa, lo trovate a pagina 15 del Giornale. Sul Giornale anche 2 articoli che in qualche modo possiamo collegare. Sapete che dall'inizio del mese il Giornale ha cominciato a pubblicare gli articoli di Benito Mussolini, che iniziò prima di diventare politico, diciamo così, iniziò come giornalista all'Avanti e siccome uno storico, Francesco Perfetti, lo ha definito uno dei più grandi giornalisti del suo tempo, il giornale sta ripubblicando alcuni articoli. Questo è, pensate, del 13 giugno del 1918, quindi a guerra quasi finita, a disastro avvenuto, a disfatta dell'Italia in quanto alleato della Germania, praticamente certa. Il titolo di questo articolo è «Bisogna osare, due punti, la vittoria è audacia». E perché vi dicevo un altro articolo? Perché un libro uscito di recente racconta invece la storia di Aimone Canape, che era l'ultimo sopravvissuto, è morto il giorno di Ferragosto a 94 anni, del gruppo di uomini che il 27 aprile del 1945 arrestò Benito Mussolini. E qui racconta la sua versione, che però ha molte conferme da tanti altri storici, che in realtà all'inizio si pensava di fare un regolare processo a Benito Mussolini al Duce, che poi purtroppo, come sappiamo, non fu processato ma semplicemente impiccato in quel barbaro episodio, possiamo anche definirlo così, almeno secondo me è un episodio barbaro, impiccato e appeso a testa in giù qui a Milano in Piazzale Loreto. Dalla pagina interna del Fatto Quotidiano, che come ho detto all'inizio spesso insomma ha degli spunti originali, interessanti, trova delle storie, fa delle inchieste su argomenti che magari altri giornali si lasciano sfuggire, sappiamo che sta iniziando la vendemmia e dovrebbe essere una vendemmia molto buona, un anno molto buono questo per il vino italiano, e però c'è anche il problema dei controlli, e quindi Ferruccio Sansa ci racconta più che sono stati introdotti più controlli dopo il disastro del metanolo, lo ricorderete, ma tra uve che arrivano dall'est Europa e denominazioni DOC fasulle, la qualità non sempre garantita. Una intervista a Taermo Ahmed, un fotografo dell'agenzia France Presse, che è stato ad Aleppo e racconta il dramma di questa guerra civile tra le strade assediate, dove la vita, dice questo fotografo, è una scommessa per via appunto delle battaglie vere e proprie nelle città, ma anche dei cecchini. Ancora altre storie. Oggi veramente avevo messo da parte tantissimi articoli che non avrò il tempo di segnalarvi come spesso accade, ma per esempio dal Corriere della Sera una bella storia da Timor Est, dove nell'isola di Atauro sono state scoperte, pensate, 642 nuove specie marine, e per questo quest'isola viene definito l'Eden della biodiversità. Ci sono delle foto che, pur sulla carta non patinata dei quotidiani, sono veramente bellissime per colori, per forme. Ci sono dei pesci, delle alghe con forme che chi non è stato lì non può aver visto. Molto bello, molto divertente l'articolo di Matteo Persivale, interessante anche oltre che divertente, perché Sting si è sottoposto agli esperimenti di un neurologo per capire come funzionano quelle che vengono definite le sinapsi musicali. Le sinapsi in realtà sono le connessioni tra i neuroni, le abbiamo tutte, però purtroppo non siamo tutti grandi musicisti, quindi non tutte sono musicali. Ma come avvengono all'interno di un grande musicista come Sting? Il cantautore si è sottoposto a questi esperimenti e secondo le conclusioni del neurologo, qual è il segreto di questo genio musicale? È che sa immaginare ciò che sta ascoltando. E ce lo racconta Matteo Persivale. Accanto un trafiletto, come vi dicevo, con un'anticipazione, ce l'hanno tutti i giornali, sull'autobiografia di Bruce Springsteen. E poi, a proposito di foto bellissime che rendono persino, ripeto, sulla carta non patinata dei quotidiani, su Repubblica un articolo di Marco Belpoliti che racconta la storia di Luigi Lineri, uno di questi incredibili italiani che ogni tanto qualcuno riesce a scovare, vive in Trentino Alto Adige, raccoglie sassi da tutta una vita e li cataloga in base alle forme. E Matteo Belpoliti ci racconta qual è il fascino che esercitano i sassi su di noi, ma sono le foto a essere impressionanti, perché appunto questo signore ha costruito delle teche apposite con tutti questi sassi, e che hanno forme molto diverse, forme e colori molto diversi. La storia appunto la trovate su Repubblica. Sempre dalle pagine interne dei giornali, per così scovare articoli un po' non strettamente di cronaca, Filippo Fiorini dalla Stampa ci racconta l'Argentina che ha superato una gravissima crisi e però adesso è tornata a soffrire dal punto di vista economico. Dopo anni di peronismo, il costo di cibo e bollette è alle stelle e il governo attuale dice dobbiamo risanare i conti ereditati dalla Kirchner. Bistecche, arate e blackout, l'Argentina di Macri, appunto il successore della Kirchner, si scopre di nuovo povera. E poi, sempre dalla stampa, un racconto di quello che sta succedendo sul lago di Iseo. Ricorderete le passerelle di Cristo sul lago che hanno attirato tantissimi turisti. Adesso, dietro un esposto del Codacons, la Corte dei Conti indaga sui costi sostenuti dagli enti pubblici, ma c'è una realtà, a proposito di numeri, altrettanto concreta, che a 45 giorni dalla chiusura di queste passerelle c'è stato un boom di stranieri sul lago di Iseo. Quindi gli abitanti sono molto contenti, vedremo come finirà, cosa deciderà alla fine la Corte dei Conti sull'esposto del Codacons. Era l'ultima segnalazione per oggi, ringrazio Paolo Corleoni in regia, vi ricordo anche che se volete mandarmi dei messaggi il mio account Twitter è Giulia_Crivelli, ora do la linea al GR, poi dopo il GR vi ricordo ancora una volta la trasmissione condotta da Elisabetta Fierito, lo speciale di questo agosto, ma cos'è quest'estate. Una buona giornata a tutti da Giulia Crivelli.